Il terzo anello. Effetto Terra. Di Silvia Zamboni. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Rai da Silvia Zamboni. Riprendiamo l'esame dei progetti realizzati da città italiane ed europee per contrastare l'effetto serra e per ridurre l'inquinamento dell'ambiente in cui viviamo. Oggi in particolare vorrei proporvi esperienze positive nel campo dell'efficienza energetica, del risparmio energetico in ambiti diversi. Sono esperienze che ci dimostrano come sia possibile ottenere le medesime prestazioni nel riscaldamento, l'illuminazione, la mobilità, riducendo i consumi. Del resto, il crescente prezzo del petrolio, primaria fonte energetica nei paesi industrializzati, sta accelerando il mutamento di abitudini e consumi più in fretta di quanto non fosse riuscito a fare lo stesso allarme lanciato dagli scienziati rispetto ai cambiamenti climatici. Cosicché, sotto la spinta dell'emergenza economica, ci avviciniamo anche all'obiettivo ecologico di ridurre le emissioni di anidride carbonica prodotte dall'uso appunto dei combustibili fossili. Prima della rassegna dei progetti virtuosi vorrei però soffermarmi su un progetto ancora prevalentemente sulla carta che è stato presentato a gennaio di quest'anno. È il progetto relativo alla prima città ecologica che sarà costruita al mondo, una sorta di città del sole, che sorgerà però, e qui sta un elemento di paradosso, nel cuore dell'Emirato Arabo Abu Dhabi, uno stato che è tra i maggiori produttori di petrolio al mondo, quindi un luogo culturalmente ed economicamente agli antipodi. Ad Abu Dhabi i 423.000 abitanti presentano un reddito medio pro capite di circa 12 milioni di euro a testa. La città del sole che deve nascere si chiamerà Masdar, che in arabo significa la fonte, ed è stata progettata dall'architetto inglese Norman Foster. Masdar ospiterà 50.000 abitanti e, stando almeno alle informazioni che si possono desumere dal progetto, sarà la prima città completamente ad emissioni zero di anidride carbonica. Eppure, essendo collocata a due passi da un'area che ospita alcuni dei maggiori giacimenti di greggio, Masdar userà energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, in primo luogo energia solare ed eolica. Il paradosso più evidente sta nel fatto che non sono previste automobili. I trasporti saranno completamente pubblici, sarà realizzata una metropolitana superveloce e sono previste anche delle specie di taxi sotto forma di vetture che circoleranno su rotaie senza presenza dell'autista, una specie di people mover con mini cabine semoventi. Ci sarà una rete di trasporto pubblico sotterranea, una in superficie e una sopraelevata. Chi abiterà a Masdar non lavorerà più di 200 metri dalla propria abitazione, cioè quello che è un sogno, non doversi spostare per appunto raggiungere il luogo di lavoro dalla propria casa. L'acqua sarà ottenuta dal mare, naturalmente, tramite un impianto di desalinizzazione alimentato da energia solare. I rifiuti saranno riciclati in percentuali elevatissime. L'obiettivo, come dicevo paradossale per uno Stato la cui economia è basata appunto sull'esportazione di petrolio, è dimostrare che è possibile costruire comunità che non emettono gas di serra, non inquinano, non sprecano e usano solo fonti di energia rinnovabili, con l'obiettivo di lungo termine di creare le basi per un'economia in grado di reggere anche quando non ci sarà più petrolio da pompare in superficie. E se ce lo insegna Abu Dhabi, che conta su una riserva di circa 100 miliardi di barili di petrolio, c'è da crederci. Ci stiamo occupando di progetti realizzati in Italia e in altri paesi per aumentare il grado di efficienza e risparmio energetico in vari campi. Lo facciamo con l'aiuto di esperti, il primo dei quali oggi è l'ingegner Sandro Picchiolutto, di professore Energy Manager, che è stato in passato responsabile del settore energia del comune di Modena, dove introdusse in edifici pubblici le caldaie a condensazione ad alto rendimento. Buongiorno ingegnere, grazie per essere con noi. Buongiorno Zamboni, buongiorno anche agli ascoltatori. Un caso che lei ci può indicare di razionalizzazione dell'illuminazione che abbia portato degli effetti positivi? Diciamo, un esempio particolarmente eclatante in Europa può essere quello della città di Graz, che negli ultimi anni è riuscita a ridurre praticamente del 60% i propri consumi energetici per l'illuminazione urbana. Ha sviluppato attraverso la propria agenzia energetica il progetto, dopodiché ha trovato un soggetto terzo che ha realizzato l'investimento. Quindi, in pratica la municipalità non ha speso denaro e ha realizzato il rinnovo degli impianti semplicemente sfruttando i risparmi che si sarebbero registrati nel futuro. Quindi l'intervento l'ha fatto questa azienda esterna e dalla differenza tra quello che avrebbe speso il comune se fosse andato avanti con l'illuminazione standard e quello nuovo invece si è ripagato gli investimenti. Esatto, questi nuovi soggetti che si chiamano ESCO, Società di Servizi Energetici, stanno avendo un grosso sviluppo anche perché recentemente, proprio circa 6 mesi fa, il governo italiano ha recepito la direttiva sui servizi energetici della Unione Europea e dentro questa direttiva si parla proprio delle società di servizi energetici che possono offrire questi servizi alla pubblica amministrazione. E c'è un caso di ESCO in Italia che le sembra particolarmente esemplare da consigliare ad eventuali amministratori che ci stanno ascoltando? Assolutamente sì. Noi abbiamo una società che riunisce 21 comuni attorno a Magenta, e 21 comuni e 200.000 abitanti, una società praticamente pubblico-privata, dove la pubblica amministrazione si è associata con degli imprenditori privati proprio per creare questa società di servizi energetici. A questo punto tutti i comuni che aderiscono a questa ESCO, Energy Service Company, riescono a migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, a montare caldaie ad alta efficienza, pannelli solari, fotovoltaico, impianti a biomasse, non investendo direttamente il loro denaro, ma facendo fare un finanziamento da un terzo che si ripaga col tempo attraverso i risparmi di questi interventi. Sembra l'uovo di Colombo. Restando nel campo sempre dell'efficienza energetica, ma applicato alla mobilità, le viene in mente un altro caso che sia esemplare? Ma certamente un caso esemplare è quello della provincia di Chieti. La provincia di Chieti ha un qualcosa come 200 mezzi tra autoveicoli di servizio e mezzi d'opera, eccetera, con un'anzianità che purtroppo è quella della pubblica amministrazione italiana, più di 12 anni. Invece di accettare semplicemente queste spese, loro si sono impegnati in un programma complesso, flessibile, che ha portato in pratica nel corso di un solo anno una riduzione del 40% dei costi di carburante e del 20% dei costi di manutenzione. E come hanno fatto? Hanno fatto un'analisi degli spostamenti, hanno visto dove venivano usati i mezzi, perché, con quali tempi, regolamentarli, nel senso, quando si può usare un mezzo pubblico, si usa un mezzo pubblico, non si va ad utilizzare un mezzo per il trasporto di una persona, anche nelle trasferte dei dipendenti. Dopodiché politiche di ricambio. Se esistono dei mezzi Euro 4, si usano più i mezzi Euro 4 degli Euro 3 e degli Euro 2. I dati di Chieti sono passati nello spazio di 2 anni da 84 tonnellate di CO2 emesse a 63, quindi un buon risultato. Un buon risultato, assolutamente. Bene, ingegner Picchioluto, la ringraziamo di essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi. Nel primo ciclo di trasmissioni dedicato ai progetti di eccellenza per combattere l'effetto serra, si chiamava Vai col vento, avevo segnalato l'avvio della realizzazione del centro civico Centro Anziani del comune di Porretta Terme, in provincia di Bologna. Questo comune dell'Appennino bolognese da 2 anni è sede della Fiera Expo Equappennino, una manifestazione espositiva e convegnistica anche, dedicata alle tecnologie per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili per la montagna. Se oggi vi riparlo del Centro Civico Centro Anziani di Porretta Terme è perché, a distanza di poco più di 15 mesi dall'inizio dei lavori, i cantieri furono aperti nel dicembre del 2006, il 15 marzo di quest'anno si è tenuta l'inaugurazione dell'edificio, seguito poi da visite guidate a questa struttura che è decisamente all'avanguardia in materia di efficienza energetica e di uso delle fonti di energia rinnovabili. Ed è anche un intervento interessante perché nasce dalla trasformazione di un vecchio edificio preesistente, precisamente l'ex dormitorio dei ferrovieri, il Ferrotel. È uno stabile a 2 piani che è stato trasformato in una costruzione a emissioni zero di anidride carbonica, tenendo conto dei principi della bioedilizia e dell'autosufficienza energetica. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto integra varie tecnologie, a dimostrazione appunto che è possibile realizzare interventi tecnologicamente avanzati anche su edifici già esistenti. In particolare, nel caso di questo centro civico, centro anziani di Porretta, l'autosufficienza energetica è garantita da un grande impianto fotovoltaico da 300 kW di 130 metri quadrati che è realizzato come tetto di un gazebo, quindi un luogo dove ci si può anche incontrare, fare una partita a carte. L'impianto termico invece si basa sull'impiego di una pompa di calore condensata d'acqua ed accoppiata a un geoscambiatore che scambia calore con il terreno. Cosa vuol dire in modo più semplice, in linguaggio più accessibile? D'estate si immagazzina nel sottosuolo il calore in eccesso e lo si recupera poi d'inverno per riscaldare gli ambienti. Un'altra curiosità di questo edificio è la cosiddetta ecobalera. È un locale che utilizza sistemi di distribuzione dell'aria e scambiatori di calore in grado di gestire i diversi carichi termici legati ai diversi usi dei locali, ossia quando la sala serve per riunioni o come sala bar, appunto sala gioco, e quando invece viene trasformata e usata come locale da ballo. In pratica quindi questo impianto, che al di là del nome curioso è naturalmente frutto di calcoli e di studi progettuali piuttosto sofisticati, questo impianto, dicevo, recupera il calore prodotto da chi balla. Per l'isolamento termico dell'edificio sono stati impiegati materiali ottenuti attraverso processi di produzione ambientalmente sostenibile, quindi il cappotto isolante in sughero, il sottotetto è in fibra di legno, gli impasti murari sono a base di argille naturali e farina di legno. L'edificio inoltre è dotato di un impianto di illuminazione ad alta efficienza. Neanche a dirlo, sono previsti pure il recupero e il riciclo dell'acqua piovana per gli usi sanitari secondari, quindi quelli del bagno, e anche per l'annaffiatura del giardino. L'intervento ha avuto un costo complessivo di 800.000 euro ed è stato promosso da un insieme di enti sia pubblici che privati, e in questo sta di nuovo una sua caratteristica. Questi enti pubblici e privati comprendono la provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e l'Istituto Sviluppo Sostenibile Italia. La settimana scorsa abbiamo sentito alcune pagine tratte dal libro Dalla caverna alla casa ecologica dell'ingegner Federico Butera, che è professore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. E con lui vogliamo parlare di alcuni edifici alla cui progettazione appunto ha collaborato e che presentano caratteristiche di eccellenza nel campo dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti rinnovabili. Mi riferisco innanzitutto all'edificio inaugurato il 24 giugno scorso ad Angele di Rosola, una frazione di Iesi nelle Marche. Si tratta di una casa ad emissioni zero di anidride carbonica suddivisa in 6 appartamenti che rappresenta, direi, una sorta di campionario delle soluzioni tecnologiche più avanzate. Ecco, ingegner Butera, ci descrive queste soluzioni? Cominciamo per esempio dal materiale di costruzione che avete usato e dall'isolamento. Sì, diciamo che la cosa fondamentale e il primo passo che bisogna fare è sempre quello di cercare di rendere minima la necessità di energia. Questo l'abbiamo ottenuto da una parte attraverso un isolamento ottimale e ottimizzato anche in funzione dell'energia solare che si può prendere attraverso le superfici vetrate esposte a sud. E dal punto di vista del sistema della gestione dell'energia? Per quanto riguarda quello, abbiamo scelto una delle tecnologie a più bassa domanda di energia a sua volta, cioè la pompa di calore geotermica cosiddetta. Si utilizza da una parte il riscaldamento radiante a pavimento che permette di lavorare con temperature relativamente basse in inverno e relativamente alte in estate, e dall'altra invece che interagire con l'aria esterna con la sua temperatura variabile, interagisce con il terreno che è sotto i 10 metri di profondità e ha una temperatura costante intorno ai 12 gradi e si sfrutta questa caratteristica della terra. Se sono ben informata, ci sono anche degli elettrodomestici particolari? Gli elettrodomestici hanno una caratteristica per quanto riguarda la biancheria e la lavastoviglie, e stabilire di avere due ingressi, una per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. Così possiamo usare l'acqua calda che viene dall'impianto di energia solare termico, che naturalmente è compreso nel sistema dell'edificio, in maniera tale da non utilizzare la resistenza elettrica che serve per scaldare l'acqua in questi due elettrodomestici. Per inciso, il 70-80% dell'energia che questi due elettrodomestici consumano è dovuta al fatto che bisogna scaldare l'acqua con la resistenza. Se eliminiamo questo, abbiamo un abbattimento notevole. Senta, questo edificio è stato realizzato grazie anche a degli sponsor di peso come l'Enel. Potrebbe stare sul mercato senza sponsorizzazioni o i costi di realizzazione sono proibitivi? No, non sono affatto proibitivi. Nel caso specifico sono un po' più alti di quanto non sarebbero in condizioni normali, perché è anche un'occasione per andare a sperimentare e a monitorare una quantità enorme di punti. Per dire, ogni elettrodomestico ha un suo contatore per cui sappiamo quanto consuma, quando, in quale occasione, proprio per poter poi andare avanti e ottimizzare ulteriormente. In condizioni normali, senza questi extra, un edificio di questo genere ha un tempo di ritorno che è dello stesso ordine di grandezza di un normale impianto fotovoltaico oggi con il conto energia, cioè intorno a una decina d'anni, grosso modo. Passiamo ora all'altro edificio, il Centro Conferenze del Regional Environmental Center di Budapest. È un ente internazionale che ha come missione diffondere la coscienza di informazione ambientale nei paesi dell'ex Europa dell'Est. Ecco, questo edificio funziona tutto con energia solare. In che modo? È il fotovoltaico quello che fornisce l'energia, e anche qui i principi sono sempre gli stessi. Abbiamo fatto di tutto per migliorare al massimo la utilizzazione della luce naturale in modo da ridurre al minimo la domanda di energia elettrica per l'illuminazione, che è una componente negli edifici per ufficio non irrilevante. Abbiamo usato una pompa di calore geotermica con sensori di CO2 che permettono indirettamente di misurare il numero di persone presenti, e quindi l'impianto, la ventilazione esterna, la velocità delle pompe, delle ventole, si adatta alla quante persone ci sono, e questo è un elemento importantissimo per ridurre i consumi energetici. Grazie ingegnere Butera delle informazioni che ci ha dato e buon proseguimento con la sua attività. Grazie a voi. E adesso veniamo a chi progetta non solo edifici tecnologicamente innovativi, ma addirittura interi quartieri che rispettano i principi della sostenibilità ambientale. È il caso dell'architetto Riccardo Roda, che si occupa di progettazione e di politiche energetiche dagli anni Ottanta e che oggi opera come partner dello studio di Firenze EOS Consulting. L'architetto Roda ha seguito la progettazione prima e la realizzazione ora di insediamenti costituiti da centinaia di appartamenti, precisamente 124 unità a Firenze, 330 a Scandicci e 200 a Siena. Buongiorno architetto. Salve. All'architetto Roda chiediamo innanzitutto di illustrarci le caratteristiche tecniche di questi quartieri orientati alla sostenibilità ambientale. In che senso sono sostenibili ambientalmente, architetto? Se si progetta un pezzo di città o addirittura tutta la città seguendo l'orientamento, il sole, il clima, quindi assecondando i fattori naturali e sviluppando in modo razionale la progettazione, si ottengono benefici molto forti a costo zero. Diciamo che la progettazione di interi quartieri è mirata a risolvere gli aspetti dell'ambiente, del clima, del luogo fisico e dare una risposta ottimale. Per esempio, lei ha citato il quartiere di Malizia, che in realtà sono 200 alloggi, ma c'è una presenza di uffici di commercio molto vasta. Sono 7 ettari nel centro di Siena per 120.000 metri cubi. Qui abbiamo dovuto demolire il consorzio agrario, regimare una collina, recuperare le acque piovane perché potevano creare dei problemi, creando tra l'altro un fiume naturale, ed è una cosa un po' strana, e riciclando addirittura in sito tutto il quartiere esistente delle attività agricole. In questo caso sostenibilità vuol dire anche riciclare nel luogo gli edifici esistenti senza portarli altrove, e recuperando acqua che era un problema, e regaleremo acqua gratis per tutti gli abitanti del nuovo quartiere. Lei a cosa dà la precedenza quando progetta? Agli elementi che riguardano l'isolamento termico, l'uso delle fonti rinnovabili, altri accorgimenti? Solo progettando in modo diverso, più razionale le città, si possono ottenere benefici. Per esempio, solo edifici esposti coi tetti a sud possono recepire i pannelli solari fotovoltaici. In secondo luogo, noi per esempio usiamo un metodo di progettazione integrale che tende a razionalizzare tutta la progettazione sviluppando soluzioni che hanno il costo-beneficio più alto. In questo senso, fare degli involucri molto protetti, ben schermati, è sicuramente la cosa migliore perché ha costi molto bassi e benefici molto alti. Lei sta progettando edifici anche nell'area dell'edilizia sociale convenzionata. Che cosa significa portare la sostenibilità ambientale in questo ambito? Vuol dire, diciamo così, cercare di fare alta cucina con gli avanzi, nel senso che l'edilizia sociale ha dei budget economici molto molto bassi, ridicoli. Per arrivare all'alta efficienza energetica bisogna cercare di utilizzare soluzioni le più semplici possibili, che diano pochi problemi di tipo monotentivo, che non siano impegnativi per gli utenti e nello stesso tempo che producono risultati che si trasferiscono immediatamente nella bolletta energetica. Per esempio, lei ha citato il quartiere Giuncoli a Firenze, è un quartiere dove 100 alloggi su 124 sono di edilizia sociale, quindi per quanto riguarda l'involucro, muri stratificati con isolamento a cappotto, eliminazione totale di ponti termici, vetri tripli bassi emissivi, impianti centralizzati a condensazione per riscaldamento con pannelli solari. E nel caso nostro abbiamo anche sperimentato, questa è una novità assoluta, degli elementi di ventilazione naturale tramite torri di ventilazione alte 30 metri. Queste soluzioni che lei ha adottato sono riproducibili? Assolutamente sì, anzi, lavorare in settori a basso budget per forza di cose devi selezionare le cose che funzionano meglio e che danno meno problemi. Grazie architetto Rode, buon proseguimento per la sua attività. Grazie a lei, a presto. Nel 2006, in occasione della Fiera delle Utopie Concrete, che si tiene ogni anno a metà ottobre circa a Città di Castello, in Umbria, fu lanciato il progetto del distretto energetico autonomo dell'Alta Val Tiberina, situata al confine tra Umbertide in Umbria e Sansepolcro in Toscana. Un'idea che non sembra essere rimasta sulla carta, come ci spiega Karl Ludwig Schiebel, che è il coordinatore dell'Associazione Europea di Città e Regioni e Province Alleanza per il Clima. Buongiorno Schiebel. Buongiorno. L'idea di rendere la Val Tiberina autonoma energeticamente non è un'idea lanciata e poi morta così sulla carta? No, da quando abbiamo fatto questo lavoro, che comprende un territorio di 1.000 km quadrati, di un 70.000 abitanti. Da quando abbiamo fatto questa simulazione, questa ricerca, dimostrando con i numeri che tutta l'energia che oggi viene consumata in questo territorio, che sono 700 gigawattore di calore e 320 gigawattore di energia elettrica, potrebbe essere prodotto con le fonti energetiche del luogo, vale a dire con il sole, il vento, la biomassa, la forza idrica. Mi sembra che l'andamento dei prezzi delle energie fossili, dei dibattiti sui cambiamenti climatici, hanno dimostrato che c'è una urgenza molto più grande che non solo 2 anni fa per questo tipo di ragionamento. Qui succedono 2 cose. Una è che, come in altre parti dell'Italia, ci sono le case private che si mettono i pannelli termosolari. C'è una parte dell'imprenditoria che punta su queste energie rinnovabili e c'è il tentativo, nell'ambito di un accordo tra questi 8 comuni sotto la guida della Comunità Montana, di fare tutto nell'ambito di un piano energetico del territorio, cioè di avere un minimo di coordinamento, soprattutto per le biomasse, è un elemento importante per una situazione equilibrata di produzione di energia sul luogo. Voi cosa avevate ipotizzato rispetto a quello che si sta poi concretamente realizzando? Per quanto riguarda le energie rinnovabili, avevamo per esempio detto che con solo l'energia eolica si potrebbe produrre tutto il fabbisogno dei 320 gigawattore di cui parlavo prima, e fattualmente sta per nascere nel comune di San Giustino, qui al nord di questo territorio, un 12 generatori eolici, ognuno di 2 megawatt, quindi sono 24 megawatt che produrranno un 100 gigawattore, quindi un terzo di quello che fa bisogno di energia elettrica di questo territorio. Prendiamo il fotovoltaico, che sembra viene considerato un modo un po' esotico di produrre l'energia elettrica. Noi avevamo ragionato che dei 3 milioni di metri quadri dei capannoni industriali qui nel nostro territorio, un terzo potrebbe essere utilizzabile per montare dei pannelli fotovoltaici. Se viene fattualmente utilizzata la metà, cioè 500.000 di metri quadrati, un altro 100 gigawattore, un altro terzo del fabbisogno di energia elettrica. Adesso, da quando abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, stanno per nascere gli impianti. Poco tempo fa è stato allacciato uno di una impresa a Cinere Castello con un 3.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Io vedo dei processi molto tangibili, non verso una autonomia energetica in tempi brevi, questo non l'abbiamo mai pensato. Noi volevamo aprire una finestra e rendere plausibile che questo comunque prima o poi è la strada, perché le energie non rinnovabili prima o poi finiranno. Il futuro che si delinea diventa sempre più interessante, non solo per la qualità dell'ambiente, non solo per la lotta ai cambiamenti climatici, ma anche per il benessere e per il tessuto economico nel territorio. La ringraziamo di essere stato con noi e le auguriamo di proseguire l'attività. Passando ora alle politiche per l'efficienza e risparmio energetico avviate dagli stati, dai governi nazionali, merita di essere citato il caso della Danimarca, perché in 2 anni ha ridotto del 10% il consumo di elettricità nella pubblica amministrazione. Un risultato questo che conferma come il risparmio energetico sia una risorsa che permette di ottenere risultati significativi in poco tempo, anche solo sulla base dei cambiamenti di abitudini negative. Ogni ministero in Danimarca ha un proprio responsabile per l'energia e tutti gli edifici pubblici sono stati analizzati alla ricerca di opportunità di risparmio. Per la selezione degli interventi migliorativi da realizzare, la regola che si sono dati è stata di eseguire quelli il cui costo si ammortizzava entro 5 anni. Secondo il ministero danese, le migliori opportunità di risparmio si trovano spesso nelle piccole cose, come per esempio fare semplici modifiche ai sistemi di areazione, sostituire le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, con i LED, installare sensori di movimento che spengano le luci nei corridoi vuoti, sostituire i vecchi computer con nuovi meno energivori. La politica di riduzione dei consumi interni all'amministrazione danese è stata attuata anche come buon esempio da far imitare da parte dei cittadini. Non a caso il Ministero del Clima e dell'Energia sta promuovendo parallelamente una campagna chiamata Una tonnellata in meno, che chiede a ciascun cittadino danese di ridurre di una tonnellata le proprie emissioni annuali di anidride carbonica. Questo è un obiettivo che, se venisse raggiunto da ogni cittadino, permetterebbe di ottenere una riduzione totale delle emissioni nazionali del 17%. È stato calcolato infatti che un cittadino danese emette mediamente 10 tonnellate di anidride carbonica all'anno. 6 di queste dipendono da scelte e abitudini personali in materia di riscaldamento, trasporti e consumi quotidiani. Con la campagna informativa di sensibilizzazione Una tonnellata in meno, il governo intende far comprendere ai danesi che l'effetto serra e i cambiamenti climatici dipendono strettamente anche dai loro comportamenti individuali e che ridurre il proprio carico di emissioni non equivale a rinunciare al nostro moderno e confortevole stile di vita. Ecco, per facilitare coloro che aderiscono è stato messo a punto un sistema di calcolo delle proprie emissioni di anidride carbonica che è consultabile su un sito web e il sito fornisce anche consigli pratici su come ridurre le emissioni. Una buona pratica che sarebbe auspicabile venisse adottata anche nel nostro paese, dove sappiamo per esempio che c'è un altissimo consumo di elettricità dovuto anche banalmente al fatto che gli elettrodomestici delle nostre case, tipo i televisori, vengono lasciati in stand-by anziché essere spenti completamente dopo l'uso. L'esempio danese della forte riduzione di consumi elettrici ottenuta nella pubblica amministrazione dimostra che basta poco per ottenere molto. Tornando in Italia, è stata fatta una stima in base alla quale risulta che ogni anno si sprecano 500 milioni di kilowattore per la cattiva abitudine, come dicevo prima, di lasciare gli elettrodomestici in stand-by anziché spegnerli completamente. Ecco che con un po' di attenzione e qualche investimento si potrebbe evitare di costruire nuove centrali elettriche, termiche, quelle appunto che usano i combustibili fossili. L'efficienza energetica è sicuramente più difficile da promuovere su larga scala. Il solo termine risparmio energetico evoca erroneamente, peraltro, l'immagine di cinghie tirate, di penuria, di sacrifici. L'efficienza energetica in realtà è frutto anche di tecnologie sofisticate. e anche se meno spettacolare degli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili, può produrre ottimi risultati. Oltre a garantire buone performance in poco tempo, gli interventi nel campo del risparmio energetico offrono un ulteriore vantaggio, che è quello di distribuire minori investimenti e dal punto di vista economico, quindi investimenti economicamente meno impattanti, ma più diffusi quantitativamente sul territorio. Un aspetto positivo dal punto di vista, diciamo, del rilancio dell'economia, perché potrebbe dare nuove possibilità, nuove occasioni di sviluppo alla piccola imprenditoria e all'artigianato qualificato. Per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio per la parte tecnica Leonardo Grasso della Sederai di Roma e Maurizio Gualandi della Sederai di Bologna. Vi do appuntamento a domani, sempre su Radio 3, alle 10.50, per la sesta puntata di Effetto Terra. Domani ci occuperemo di progetti per ripensare la città a misura di bambino, secondo il principio che dove sta bene un bambino, stanno bene anche gli adulti e l'ambiente. Ancora l'augurio di una serena giornata. A risentirci. Effetto Terra di Silvia Zamboni. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Paola Roli. Il terzo anello @rai.it.